Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. D'estate e d'autunno se l'era cavata bene, ma dopo Natale gli affari andarono un po' male. E sebbene il salario del suo lavoro notturno fosse aumentato di $5 alla settimana, Frank si trovò nell'impossibilità di far fronte a tutte le spese. Ogni moneta sembrava grande come la luna. Una volta cercò per un'ora un mezzo dollaro che gli era caduto dietro il banco. Strappò dal pavimento una tavola sconnessa e fu tutto contento di recuperare più di $3 in monete sudice e ossidate che Morris aveva perduto nel corso degli anni. Era sempre stanco. La spina dorsale gli faceva male come se gliel'avessero torta come la coda di un gatto. Dimagriva, il collo gli si assottigliava. Le ossa del viso sporgevano, il naso rotto gli diventava affilato. Vedeva la vita attraverso gli occhi sempre umidi e un continuo sbadiglio. Beveva caffè fino ad avere il bruciore di stomaco. Di sera non faceva nulla tranne leggere un po', oppure se ne stava seduto nel retro a luce spenta, a fumare e ad ascoltare i blues alla radio. Aveva altre preoccupazioni. Aveva notato che Nat frequentava Ellen più sovente. Un paio di volte alla settimana lo studente di legge l'accompagnava a casa in macchina. Qualche volta, durante il weekend, facevano una passeggiata in auto di sera. Nat suonava il clacson davanti alla porta ed Ellen usciva tutta elegante e sorridente. Né lui né lei notavano Frank, che pure non nascondeva il fatto di stare a guardare. Lei si era fatta installare un altro telefono di sopra e Frank lo sentiva suonare un paio di volte alla settimana. Il telefono lo rendeva nervoso, geloso di Nat. Una sera Frank si svegliò bruscamente quando Ellen entrò con qualcuno nell'atrio. Senza farsi sentire, si spostò in negozio. Ascoltando alla porta laterale, li udì sussurrare. Poi tacquero e pensò che si stessero baciando. Dopo, per ore, la desiderò tanto che non poté riprendere sonno. La settimana seguente, ascoltando alla porta, scoprì che il ragazzo che Ellen stava baciando era Nat. La gelosia lo divorava. Ellen non metteva mai piede in negozio. Per vederla, Frank doveva mettersi alla vetrina. Gesù, si diceva, perché mi sto ammazzando in questa maniera? Si dava parecchie malinconiche risposte. E la migliore era che mentre faceva questo non poteva fare nulla di peggio. Ma poi cominciò a fare cose che aveva promesso a se stesso di non fare più. Quando ne stava facendo una, temeva la successiva. Si arrampicò lungo la conduttura dell'acqua per spiare Ellen nel bagno e due volte la vide mentre si spogliava. Sentì pena per lei, per la carne nella quale per un attimo era entrato, ma la odiò per averlo amato, perché desiderare ciò che aveva avuto una volta e non aveva più era una tortura. Giurò a se stesso che non l'avrebbe più spiata, ma non mantenne la parola. Nel negozio prese a frodare i clienti rubando sul peso quando non guardavano la bilancia. Un paio di volte diede del resto in meno ad una vecchia signora che non sapeva mai quanto aveva nel borsellino. Poi, un giorno, senza nessun motivo palese, sebbene in cuor suo sapesse perché, smise di arrampicarsi su per la conduttura e di spiare Helen e si comportò onestamente in negozio. Una sera di gennaio Helen stava aspettando il filobus sul marciapiede. Era stata a studiare con una ragazza che frequentava il suo stesso corso e poi aveva ascoltato dei dischi. Così aveva lasciato l'amica più tardi del previsto. Il filobus tardava ed Helen stava meditando di rincasare a piedi nonostante il freddo, quando cominciò ad avere la sensazione che qualcuno la stesse spiando. Guardando nel caffè davanti al quale si trovava, non vide nessuno dentro tranne il barista che dormiva con la testa appoggiata ai gomiti. Mentre l'osservava, cercando di spiegarsi perché avesse quella sensazione così strana, l'uomo alzò il viso assonnato ed Helen, stupita, vide che era Frank Alpine. Lui diede un'occhiata triste e piena di cordoglio alla sua immagine riflessa nella vetrina e ripiombò nel sonno come un ubriaco. Ci volle un minuto a Helen per rendersi conto che Frank non l'aveva vista. Per un attimo avvertì il ritorno di una vecchia sofferenza, eppure la sera d'inverno pareva chiara e bella. Quando arrivò il filobus prese posto nel fondo. Era oppressa dai suoi pensieri. Ricordò che Ida le aveva detto che Frank lavorava da qualche parte di notte, ma non aveva dato nessun rilievo a quella notizia. Ora che l'aveva visto là, intontito dal troppo lavoro, magro, infelice, si sentì un peso sul cuore, perché non era certo un mistero per chi Frank lavorava. Aveva impedito a lei e a Ida di morir di fame. Era merito suo se lei aveva abbastanza denaro per frequentare i corsi serali. A letto, mezzo addormentata, fu lei a scrutare chi prima l'aveva scrutata. Le venne da pensare che era cambiato. È vero, non è più lo stesso uomo, si disse Helen. Avrei dovuto capirlo ormai. L'aveva disprezzato per il male che le aveva fatto, senza comprenderne la causa e le conseguenze, e senza ammettere che ci potesse essere un termine al male e un principio al bene. C'era qualcosa di strano nella gente. Poteva sembrare uguale ed essere invece diversa. Frank era stato una certa cosa, sporca e meschina, ma c'era qualcosa in lui, qualcosa che Helen non riusciva a definire, forse un ricordo, un ideale che magari aveva dimenticato e di cui si era poi sovvenuto, e questo l'aveva trasformato, ne aveva fatto una persona diversa. Avrebbe dovuto capirlo prima. Quel che mi ha fatto è stato sbagliato, pensava Helen, ma poiché in cuor suo è mutato, non mi è debitore di nulla. Mentre stava per recarsi al lavoro una mattina, una settimana dopo, Helen entrò in negozio con la borsa in mano e scoprì Frank nascosto dietro la tenda di carta della vetrina, intento a spiarla. Frank rimase imbarazzato ed Helen provò una strana commozione vedendo il suo viso. «Sono venuta a ringraziarti del tuo aiuto», spiegò. «Non devi ringraziarmi», disse Frank. «Non ci devi nulla. Mi piace così». Tacquero. Poi Frank accennò alla sua idea che Helen frequentasse l'università di giorno. Sarebbe stato meglio per lei che non i corsi serali. «No, grazie», disse Helen arrossendo. «Non potrei fare una cosa simile, specialmente quando tu lavori così duramente. Non dovrei affatto lavorare di più». «No, ti prego. Forse il negozio potrebbe andar meglio E allora potrei farcela con quello che incasseremmo qui. Preferirei di no. Pensaci su, disse Frank. Dopo un attimo d'esitazione, lei rispose che ci avrebbe pensato. Frank voleva chiederle se c'era ancora una possibilità per lui, ma decise di aspettare ancora un po'. Prima di uscire, Helen, tenendo la borsa in equilibrio su un ginocchio, l'aprì e ne tolse un libro rilegato in pelle. «Volevo che sapessi che uso ancora il tuo Shakespeare». Frank la guardò camminare verso l'angolo. Era carina così, col suo libro nella borsa. Aveva le scarpe coi tacchi bassi e questo accentuava la curvatura delle gambe. Frank, per qualche segreto motivo, trovò la cosa soddisfacente. La sera dopo, ascoltando alla porta, sentì che litigavano nell'atrio. Voleva uscire e dare aiuto a Helen, ma si trattenne. Udì Ned dire qualcosa di aspro, poi Helen lo schiaffeggiò e Frank la sentì correre su per le scale. «Puttana che non sei altro!» le gridò dietro Ned. Una mattina, verso la metà di marzo, il negoziante dormiva pesantemente approfittando della sua notte di permesso al coffee pot quando un bussare alla porta lo destò. Era la polacca che voleva la sua pagnotta da 3 cents. In quei giorni veniva più tardi, ma sempre troppo presto. All'inferno, pensò Frank, devo pur dormire. Ma dopo qualche minuto divenne nervoso e cominciò a vestirsi. Il negozio non andava ancora molto bene. Frank si lavò la faccia davanti allo specchio rotto. La sua folta capigliatura aveva bisogno del barbiere, ma si poteva aspettare ancora una settimana. Pensò di lasciarsi crescere la barba, ma aveva paura che avrebbe fatto scappare qualche cliente e optò per i baffi. Se li era lasciati crescere per 2 settimane ed era rimasto stupito di trovarci tanto rosso. Qualche volta si domandava se sua madre non fosse stata rossa di capelli. Aprì la porta e fece entrare la polacca. Lei si lamentò che Frank l'aveva fatta aspettare troppo al freddo. Lui le affettò una pagnotta, gliela incartò e incassò i 3 cents. Frank ebbe 6 clienti in tutta la mattina. Per combattere il nervosismo, prese un libro che stava leggendo. Era la Bibbia. A volte Frank pensava che certe parti avrebbe potuto scriverle lui stesso. Leggendo, ebbe una piacevole visione. Vide San Francesco uscire danzando dai boschi nella sua lacera tonaca marrone mentre un paio di uccelli esili gli svolazzavano intorno al capo. San Francesco si fermò di fronte al negozio e, chinandosi sul bidone delle immondizie, tirò fuori la rosa di legno. La gettò in alto e la rosa si mutò in un fiore vero che lui prese al volo. Con un inchino la diede a Helen, che proprio in quel momento era uscita di casa. «Sorellina, ecco la tua piccola sorella, la rosa». Da lui Helen la prese, anche se era con l'amore e gli auguri di Frank Alpine. Un giorno in aprile Frank andò all'ospedale e si fece circoncidere. Per un paio di giorni se ne andò in giro faticosamente con un dolore tra le gambe. Il dolore lo esasperò e lo ispirò. Dopo la Pasqua divenne ebreo.